Salve a tutti cari amici, bentrovati dal vostro speaker vagabondo Fumino e benvenuti alla puntata numero 20 di Vagabondo in giro per il mondo. Inizierei questa puntata di mercoledì 1 marzo dell'anno politico 2017 col ricordo di un artista che 5 anni fa questo giorno ci ha lasciato e ci ha lasciato un bagaglio di musica incredibile, sia suonata che da suonare. Ci ha lasciato improvvisamente e sto parlando di Lucio Dalla e vorrei dedicare questa puntata alla sua memoria. Bene, detto questo, perché inizio con questo incipit? Chiaramente sono un fan di Lucio Dalla, questo è un dettaglio, perché chiaramente musica, soprattutto, ci sono tanti gusti, tanti stili, sia da parte di chi la esegue sia soprattutto dalla parte di chi l'ascolta, e quindi ognuno c'ha i suoi. A me questo scontro che c'è anche spesso, che ne so, Vasco Rossi, Ligabue oppure Beatles, i Rolling Stone, forse lo scontro fra i più famosi della musica moderna, insomma, questi scontri sono alla fine ridicoli. Sì, a uno piace più uno, a uno piace più l'altro, però alla fine non ha senso che la gente l'etichi o addirittura si offenda, perché sui social network capita molto spesso di vedere offese da parte di una fazione, che ne so, il fan di Ligabue che offende il fan di Vasco Rossi, tutti garba, quel drogato, questa è proprio l'offesa standard che viene detta sui social network nei confronti e via, ma chiaramente questo, ma che senso ha? Ma sprecate le vostre energie a vedere chi ce l'ha più lungo, se Vasco Rossi o Ligabue, ma per favore, ma ognuno si ascolti la sua musica possibilmente ad un volume decente senza disturbare gli altri e tutti siamo felici e contenti. La musica è gioia, la musica deve essere un piacere per chiunque la fa e per chiunque l'ascolta. Detto questo, quello che io mi chiedo è una cosa che è molto collegata al mondo della musica, ma è collegata anche a altri mondi, chiaramente. Però, diciamo, partiamo da un incipit del mondo della musica. Perché se io vi dico una frase topica, ad esempio, uno su mille ce la fa, cosa vi viene in mente? Chiaramente, ai più sarà venuto in mente la famosissima canzone di Gianni Morandi. Chiaramente, anche a me mi viene questo in mente, ma a monte io mi faccio una domanda e mi chiedo: ma com'è che ci sono persone che riescono ad avere questo tipo di successo enorme pur non avendo probabilmente nessuna caratteristica eccellente? Alla fine i già citati Vasco Rossi e Ligabue sono due cantanti probabilmente di musica leggera più conosciuti in Italia, però mi chiedo come mai questi due hanno avuto il successo che hanno avuto o che stanno avendo, perché chiaramente sono ancora entrambi in attività, a fronte di normalissime doti. A parte che chiaramente c'è una capacità, probabilmente l'empatia, riuscire a dire in musica delle cose che toccano le corde delle persone e che da lì non escono più. Bene, ma perché proprio loro e non altri? Cioè, alla fine, quanti Vasco Rossi ci saranno stati in Italia negli anni 70? Ma tantissimi. Oppure quanti Ligabue negli anni 80-90? Tantissimi. Ma perché proprio quelli lì? Allora, forse c'è una forza di volontà al che va al di là delle capacità tecniche, che indubbiamente ci sono, però forse c'è una forza di volontà, forse c'è una ripetitività nel fare delle cose, per cui fai oggi, fai domani, come un'arte marziale. Alla fine, nelle arti marziali, come si dice, una mossa, come può essere ad esempio un pugno, dice, l'allievo viene messo dal maestro a ripetere questo colpo svariate volte, centinaia e migliaia di volte, fino a che magicamente il colpo all'allievo viene in maniera perfetta. Quindi potrebbe anche darsi che ci sia questo motivo qua, non lo so, ma come può essere per la metafora delle arti marziali riguardo la musica, che poi io ne ho citati due a caso perché sono i più famosi, ma insomma questa lista è infinita, ma ad esempio, ma anche che ne so, nello sport, ma perché ci sono, chiaramente uno dice sì, nel calcio quello è bravo, non so, Maradona era Maradona, va bene, non è che ce ne sono stati tanti come Maradona, ok. Pelé era Pelé, e anche come Pelé non è che ce ne sono stati tanti. Roberto Baggio è stato Roberto Baggio e non ce ne sono. E qui ci siamo, ci sono chiaramente quei casi per cui la classe, il genio sono innegabili e sono clamorosamente superiori alla media, e quindi chiaramente questi personaggi escono. Però ci sono dei personaggi di contorno che arrivano in Serie A, ad esempio, e sono giocatori alla fine normali, o che comunque come loro ce ne sono tanti. E mi direte: sì, va bene, ma non è che tutti arrivano in Serie A. E appunto proprio per questo, cioè, in Serie A sì, ci arrivano i più bravi, è vero, ma come ad esempio il difensore, che ne so, di una squadra X, il Chievo, un giocatore che è arrivato in Serie A, che in Serie A sono soldi alla fine, no? È uno stipendio enorme già di base rispetto anche alla Serie C. Ma chissà come, quante altre persone c'erano in grado di giocare in Serie A e invece non ci sono andate. E alla fine come fai a dire questo? Ma non è che lo dico perché ho cognizione di causa, è solo una sensazione che magari farà un po' riflettere. Però ad esempio mi vengono in mente dei casi di giocatori che fino a età molto avanzata hanno militato in serie inferiori, molto inferiori anche, e poi si sono trovati a pieno merito e sono stati bravissimi calciatori di Serie A per gli ultimi anni della propria carriera. Cito alcuni esempi, tipo Dario Hübner, che ha giocato in Serie A nel Brescia, ma prima di essere lì mi sembra proprio che la sua carriera fosse stata svolta solamente nelle serie minori. Oppure Moreno Torricelli, che giocava nella Juventus, anche lui addirittura mi sembra giocasse nel campionato di Serie D, preso dall'oggi al domani dalla Serie D alla Serie A con meriti esorbitanti, giocava benissimo anche in nazionale. Oppure Riga, no, che è stato preso in C2 dalla Fiorentina fallita. Quando la Fiorentina fallì, prese Riganò da una squadra di quella categoria lì, più o meno, e Riganò è stato a Firenze anche in Serie A, e poi mi sembra ci sia stato anche con un'altra squadra. E quindi, però fino ad un'età molto avanzata giocava in categoria inferiore. Allora, perché fino a quel momento non ci sono andati, pur dimostrando che ne sarebbero stati in grado? E poi a un certo punto, boom, arriva qualcuno che li vede e gli dice: te sei buono per le Serie A. Com'è? Quello che mi chiedo io: perché succedono queste cose? Cioè, perché ci sono persone che sono toccate dal fato, dalla fortuna, mettiamola così, e persone che invece no? Questa è una domanda che un po' mi assilla, perché forse potrebbe essere, diciamo, una chiave di lettura per semplificare la vita. Però chiaramente io forse sono anche un po' un visionario, però ci vedo molto di bello dietro a queste storie, dietro a queste situazioni che dicono che uno su mille ce la fa. E ovviamente uno su mille è un rapporto alla fine, che sì, ci sta, perché se pensiamo a quante persone giocano a calcio in Italia in età giovanile, proprio da bambini. Ma io non voglio dire tutti, perché chiaramente ci sarà chi gioca a pallacanestro, ci sarà chi gioca a basket, ci sarà chi non gioca a niente, ci sarà chi suona e via discorrendo, ci sarà chi fa arti marziali. Però tantissimi, ovviamente tantissimi bambini vengono portati dai propri familiari a giocare a calcio in qualsiasi squadra, in qualsiasi sia. Vengono portati tanti bambini, ma chiaramente le squadre di Serie A quanti giocatori contano nelle loro fila? Boh, non lo so, 25 giocatori per squadra, saranno 20 squadre più o meno, quindi quanti sono? 500 giocatori. Quanti bambini giocano a calcio vogliamo tutti gli anni? Boh, vogliamo dirci un milione? Un milione di persone l'anno giocano a calcio e 500 arrivano in Serie A. Quindi uno su mille, ma forse anche meno, se questi rapporti sono corretti. Cioè, è solo giusto un pensiero per fare un po' di conto della serva. Però ecco, questo volevo dire. Volevo dirvi sostanzialmente, con questo discorso, con questo preambolo, con questo pensiero che mi viene in testa, volevo dirvi una cosa molto importante. Qualsiasi sia il vostro obiettivo, qualsiasi sia le cose che vi siete prefissati, fatele per voi stessi. Fatele sempre credendo di migliorarvi, non fatele magari per un tornaconto personale più o meno immediato, fatele però per il vostro benessere, per essere migliori. Ad esempio, io, che ne so, faccio questa trasmissione così, la faccio per me, non la faccio per nient'altro, cioè la faccio per me. E magari se qualcuno di voi che mi ascolta, che si è un po' appassionato al mio modo di pensare, da quello che io dico riesce a avere anche solo un'ora in un giorno la vita più serena, io sono già super super soddisfatto. Quindi figuratevi, le cose vanno fatte con tenacia, persistendo, andando anche contro agli ostacoli, andando anche contro alle difficoltà, che quelle sono sempre pronte, sempre dietro l'angolo. Quando sembra che tutto vada bene, brum, succede qualcosa che ci porta indietro. Però a qualcuno gli succede anche che invece un evento lo spinge su fino al cielo, fino a toccare il cielo con un dito, fino al massimo che si può pensare di ottenere. E ci sono casi di questa portata qua, ci sono queste cose che accadono. L'importante è cercare di interrogarsi per capire come fare ad arrivarci. Quindi io mi auguro che con questo discorso, che sembra un discorso campato in aria da un pazzo qualsiasi, invece vi porti a pensarci, a pensare che tutte le cose che fate scatenano una reazione che sarà positiva o negativa in base a quello che voi avete in primo luogo pensato facendo l'azione stessa. Di conseguenza io mi auguro che questo discorso vi faccia un po' riflettere quando fate le cose, vi faccia un po' stare più calmi nel farlo e più sereni nell'accettare un fallimento, nell'accettare un risultato negativo, anche perché non è assolutamente facile, non è assolutamente immediato avere risultati positivi. Queste cose le vogliono i bambini vogliono tutto e subito, perché hanno ovviamente l'ego super super amplificato. C'è il mio nipote che è piccolissimo, ha 6 anni e ha già provato svariati sport e tutto quanto, e mio fratello mi dice ha mollato dopo 3 allenamenti, perché lui, se una cosa gli riesce subito bene allora la fa, ma se una cosa non gli riesce subito la molla, vorrebbe tutto e subito. È chiaro, e c'ha un ego smisurato, a 6 anni si ragiona solo per ego. Però mi auguro che crescendo riesca anche lui a trovare, a capire quanto è importante in realtà imparare e accettare i fallimenti per migliorarsi. E anche quando non sono fallimenti, quando le cose sono fatte bene, però non andiamo avanti, però per qualche motivo non andiamo avanti, probabilmente è perché non abbiamo capito bene quello che stiamo facendo, per cosa lo stiamo facendo. Se invece riusciamo a capire questo, ci miglioreremo e andremo avanti. E questo è il mio augurio. Il mio augurio è di ritrovarvi migliorati anche la settimana prossima, quando tornerò con la nuova puntata di Vagabondo in giro per il mondo, come sempre sulle frequenze di Radio Big World. E nel frattempo, mentre penserete a tutto questo e mentre cercherete di migliorarvi costantemente tutti i giorni, l'augurio e l'invito che vi faccio, come tutte le volte, è: siate saggi!